ho voluto bene, l'ho fatto davvero. Affidarmi a te come un carro del treno. Guardare le tue mani che toccavano il piano. Suonare corde che noi non conoscevamo. E non mi parli, parliamo da un pezzo. Tra noi parlano carte legali di mezzo. E tu non hai le palle di dirmelo adesso. Che io per te non ho più un ritaglio di tempo. Sarà tu. Cambiarti, cambiarmi, cambiare. Farò di tutto per voltarmi, trovarti, volare. Ti accorgerai di quanto è stupido farmi del male.